4. Ruote e dintorni di Roberto Rasia. E allora ci siamo, ultima puntata di agosto. Buonasera, bentornati a tutti gli amici, amanti e appassionati di motori. Queste quattro ruote dintorni dal maggio 2001 in compagnia degli amici di Quattro Ruote, i loro esperti, la loro pista, le auto che provano sono a nostra, ma più che altro a vostra disposizione qui su Radio 24 ogni sabato dalle 21 alle 22. Due indirizzi, mail e web, sono sempre quelli ma li ricordo volentieri: www.radio24.it nella sezione programmi. C'è anche Quattro Ruote e dintorni con tutto l'archivio e anche l'audio delle voci che sentirete questa sera da lunedì pomeriggio disponibili, lunedì prossimo evidentemente. Poi una semplice mail vi proietta all'interno della nostra redazione, 4 scritto in numeri, ruote chiocciola radio24.it. Abbiamo quattro temi fondamentali questa sera, mi auguro di grande interesse, più qualche news. Apriremo con la Formula 1, c'è già Carlo Cavicchi, il vice direttore di Quattro Ruote in linea. Caro Carlo, intanto buonasera e bentornato. Buonasera a tutti. Con te evidentemente parleremo di Formula 1 in un momento cruciale del campionato e poi parleremo di MotoGP con Paola Barogno, perché anche il MotoGP vive una fase delicata, qualcuno dice ormai a stagione chiusa. E poi proveremo in anteprima davvero esclusiva la Mercedes SLS, quella che dovrebbe essere la sostituta della SLR, provata da Marco Pascali, tra l'altro di Top Gear Italia. Sentiremo Marcello Minerbi, il direttore. Chiacchiereremo con il fleet manager di AstraZeneca, che ha promesso di ridurre in maniera sostanziosa le emissioni nocive nell'aria, e poi con il professor Malagodi faremo il punto sul mercato automobilistico. Come sempre chiuderemo con l'avvocato Lievore, che attenzione, oggi si occuperà delle nuove sanzioni davvero appesantite per chi guida in stato di ebbrezza. Puntata quindi ricca. Carlo, ti chiedo di recuperare per i pochi distratti che non sanno che cosa è successo nelle ultime settimane la situazione attuale in questa settimana della Formula 1. Beh, la Formula 1 si avvia, intanto per cominciare, a un finale estremamente interessante, perché quattro piloti che sono in lotta per il titolo in maniera seria sono tutti quattro che non hanno mai vinto il titolo, quindi è un fatto abbastanza inusuale, con un campione in carica che è Hamilton, peraltro con un finale di stagione che si preannuncia molto differente dall'inizio stagione, perché da cominciare da Hamilton e da qualche sussulto Ferrari abbiamo vetture che inizio stagione andavano piuttosto male, ma oggi riescono a lottare per vincere. Hanno vinto nel caso di Hamilton in Ungheria, hanno perso per disavventure del team a Valencia, nel Gran Premio d'Europa in Spagna, però resta il fatto che oggi sono vetture che possono vincere. Lo stesso Raikkonen viene da due gare molto molto interessanti con la Ferrari, due volte a podio, e questa è una buona cosa. Una buona cosa, una forma che sembra calda. Tra l'altro siamo tutti reduci dalle grandi illusioni dettate dal pluricampione Michael Schumacher, con tutto quanto ne è seguito. La delusione evidente per il suo annuncio poi di non partecipare alle gare, e un Badoer su cui ho visto sulla rassegna stampa, Carlo, un po' tutti hanno sospeso il giudizio, per dire ha iniziato forse da una delle gare più difficili, circuito cittadino di Valencia, è andato così cos'ha, però è arrivato alla fine e aspettiamo il prossimo weekend. Tu sei d'accordo con questi commenti o ti senti già di fare una critica? No, il problema è che è stato mandato, a mio avviso, molto allo sbaraglio. C'è un pilota che non corre da 10 anni, e pretendere da lui degli automatismi è una cosa veramente difficile. Molti avevano paura di mettere un giovane, quando il giovane gli automatismi li ha tutti, e uno invece che non corre da una vita lo dimostra anche una cosa sola, che il Gran Premio l'ha vinto un nonnetto come Barrichello, che quando correva ed era in grande forma in Formula 3000 le aveva prese da Badoer, che ha vinto il campionato proprio davanti a lui. Quindi resta a vedere la differenza a distanza di tanti anni cosa succede, che uno passa prima e l'altro ultimo o penultimo, poco conta a questo livello, ma l'allenamento oggi e la sua passione all'abitacolo, alla lotta, a tutti pulsanti, comandi, ragionamenti, è fondamentale. Quindi Badoer, ripeto, a mio avviso ha mandato un po' lo sbaraglio. Sì, decisamente, un po' come succede in atletica, la forma e oltre che in Formula 1 il mezzo davvero fanno la differenza. Non è che non si è buoni piloti, ma se è vero come sembra tutto quello che è successo per esempio a Schumacher, un collo che non funziona, non è che Schumacher non sappia più andare in auto, però sono sollecitazioni di cui perdiamo un po' forse l'evidenza in televisione. Schumacher è stato il primo che ci ha insegnato che per vincere nella Formula 1 moderna ci vuole una forma forma fisica strepitosa. Certo. E lui lo sapeva benissimo, e non trovando questa forma per il collo, ma non solo per quello, e lui essendo un grandissimo campione si è reso conto al volo se era in condizione di esserci o non essersi, quello che è un'opportunità che a Badr non è stata data, è stato mandato e punto. Senti, torniamo invece allo stato attuale. Jenson Button e Barrichello, i due protagonisti di una GP Brown veramente esclusiva. Quest'anno grande inizio stagione, poi una flessione, forse ora rialzano il casco, si potrebbe dire. Poi Webber e Vettel, due, uno giovane, uno un po' meno, però arrembanti, con grande talento, e una Red Bull che o arranca o fa bene o fa male. C'è una grande scostanza, mi sembra, in questo campionato. Cosa ne pensi? Beh sì, adesso in particolare tutto diventa difficile perché si aggiungono appunto altre squadre, quindi quelle che prima erano differenze ma stavano uno davanti all'altro oggi vengono spostati in maniera clamorosa, cioè Button, che fa una gara col secondo giro più veloce, finisce settimo, quindi oggi tanti sono lì e quindi questo confonde un po' le cose. Direi che tra Vettel e Webber la situazione è abbastanza chiara, insieme al team lo sanno. Se è asciutto, Webber può stare davanti a Vettel, se sarà bagnato Vettel difficilmente si farà battere, quindi hanno questi problemi, e in finale di stagione dovrebbe portare diverse gare abbastanza incerte come tempo. Diciamo che le Brown sono avvantaggiate, inutile dirlo, sono avvantaggiate, e Button oggi va più piano perché c'ha il peso di un mondiale da portare a casa, si è visto benissimo in partenza a Valencia, quando stando attento, certo. Attento, ormai lui deve portare a casa i punti, insomma, e l'altro invece non ha niente da perdere, quello che era lui all'inizio. È chiaro, è chiaro. Ci vuoi raccontare anche a grandi linee lo stato dell'arte di una battaglia che è passata finalmente in secondo piano per noi del pubblico, quella della successione a Mosley? Da una parte torna in gran carica Jean Todt, dall'altra Vatanen, se non sbaglio. Sì, esatto. Perché è così importante quel ruolo, Carlo? Perché la presidenza della FIA noi la vediamo sempre solo in ottica Formula 1, in realtà è un incarico molto grande dove tutta l'industria automobilistica dipende dalle scelte del presidente della federazione per tantissime cose. Il lavoro di Mosley a quel livello è stato straordinario, perché la sicurezza portata sulle strade, la sicurezza sulle automobili le ha imposte questa federazione. Se la giocano comunque due persone che sono peraltro nella vita state molto amici, uno ha perso il mondiale contro l'altro quando erano entrambi nell'abitacolo, uno è stato direttore sportivo dell'altro dopo. Vatanen è un personaggio che è più vicino alla politica perché è stato eletto già due volte al Parlamento europeo, le ultime due legislature, ed è una persona molto molto retta, molto pulita, molto lineare. Todt è uno con grandissima esperienza e con una buona base di voti che gliela sta offrendo su un piatto d'oro Max Mosley. Sarà una battaglia un po' più incerta di quello che si pensa. Da noi è facile pensare che sarà facile per Todt, ma non credo. Se Vatanen si è presentato è perché ha sicuramente da parte dei voti che contano. Decisamente. Direi di chiudere con una riflessione immancabile sul buon Felipe Massa. Vorrei intanto la tua personale sensazione e poi un po' anche la descrizione di questo mistero che anche giustamente avvolge quelli che sono comunque dati sensibili, personali molto delicati, riguardano la salute, ma qui vanno oltre perché si tratta non solo della carriera di un giovane, ma della carriera di un grande pilota amatissimo in tutto il mondo e legato a una Formula 1 che a questo punto sembra un po' paralizzarsi a livello di mercato intorno alla sua persona. Esattamente, proprio così, perché Massa oggi è uno dei top driver che sono in circolazione. Non sappiamo quando potrà tornare, sappiamo che in Formula 1 è molto più difficile, ad esempio, che nelle moto, il rimettersi al volante, perché sono i controlli medici sono molto più severi, si concede molto di meno. E poi soprattutto il vero problema è che Massa poteva essere uno che fino a ieri aveva un grande mercato, sia un grande peso interno alla Ferrari, sia se andava sul mercato una lunga fila di gente ben lieta di prenderselo, però in questo momento tutti sono fermi perché finché non lo vedono guidare come sarà, in che condizioni torna, nessuno si azzarda a dire ma lo offro io, anche perché la Ferrari non dimentichiamoci che ha un grosso problema, cioè a Raikkonen in squadra, che peraltro ultimamente si è rimesso ad andare abbastanza forte, che ha un contratto onerosissimo anche per l'anno prossimo. La Ferrari gli ha prospettato l'idea di non correre se facessero lo squadrone Massa Alonso e lui non ha fatto obiezioni, però ha detto i miei soldi li voglio tutti, e questo è un problema molto serio per i conti anche della Ferrari, quindi piazzare in questo momento e dire io rinuncio a Raikkonen per prendermi Massa, se però non so come sarà messo Massa, è una cosa che è comunque un salto nel vuoto anche per la Ferrari. Viceversa, chi deve prendersi Raikkonen con quello che costa ha delle obiezioni, insomma è un mercato Massa l'ha complicato. Certo, poverino. Battutissima finale, pochissimi secondi, Fisichella in Ferrari? Lui ha dichiarato proprio oggi che sarebbe il sogno di una vita. È una possibilità come tante, certo domani sapremo molte cose in più, domani sera, probabilmente per ragionare, per capire che cosa potrà succedere. Ottimo, grazie di cuore a Carlo Cavicchi, a presto Carlo e buona gara domani. Allora. Arrivederci a tutti, buonasera. Quattro ruote e dintorni. Allora, come vi dicevo, nuovi temi, ma rimaniamo nel campo sport. Sportività domani, grande giornata, anche se ad un orario insolito, ci sarà anche il MotoGP. Abbiamo parlato finora con Carlo Cavicchi di Formula 1. Bene, gli amanti dei motori avranno altro pane per i loro denti, perché è un momento davvero molto particolare per la MotoGP. Prima, un grande testa a testa fra i due rimasti dopo l'abbandono di Stoner, Jorge Lorenzo e soprattutto Valentino Rossi, che era già un po' in vantaggio. Adesso sono ben 50 i punti a vantaggio di Rossi dopo che Jorge Lorenzo l'ha fatta un po' grossa nell'ultimo Gran Premio, è scivolato mandando al vento molti buoni propositi per conquistare il campionato del mondo di quest'anno. Però ci sono tante notizie, per esempio una è il rinnovo del contratto di Jorge Lorenzo. Non vi dico io per chi ha firmato, nel caso l'aveste perso sui giornali che hanno dato solo qualche trafiletto ultimamente, ma ve lo dice Paola Barogno di Due Ruote. Caro Paola, intanto buonasera e bentornata. Buonasera a te Roberto e buonasera a tutti gli ascoltatori della tua radio. Dunque coraggioso due volte Jorge Lorenzo. Sì, secondo me è stato coraggioso. L'interpretazione del rinnovo del suo contratto può essere duplice, cioè qualcuno dice, cioè le interpretazioni sono, è stato coraggioso perché comunque rimane in squadra con il pilota più forte degli ultimi anni, degli ultimi decenni sicuramente, uno dei più grandi campioni di tutte le epoche, e si metterà anche l'anno prossimo a correre con la stessa moto e con le stesse gomme, quindi un duello alla pari con il più grande. Questa è la prima versione. La versione invece più meno diciamo esaltante dice che corre con la migliore moto attualmente in circolazione, una moto sviluppata da Valentino Rossi, portata quindi ai massimi risultati dal migliore tester che attualmente è in circolazione e che lui ha ottenuto di avere in un assetto gemello, cioè ha preteso dal direttore della squadra che l'anno prossimo di avere la stessa identica moto di Valentino Rossi. È possibile che Rossi su questo non abbia nulla da dire? No, ce l'avrà sicuramente da dire. Il fatto è che infatti non a caso nella squadra c'è questo anomalo muro che divide i due team, quindi con le informazioni eccetera, cioè hanno la stessa moto, ma il modo di gestirla a livello ingegneristico e tecnico è comunque personalizzata. Quindi insomma, certo, interessante certo. Comunque la cosa. Io devo dire, ho una grande ammirazione per Lorenzo, lo trovo un grandissimo combattente. E poi come ha detto lui stesso, credo due weekend fa, ha detto insomma io mi trovo a battermi quotidianamente, ogni domenica, ogni Gran Premio, con quello che è considerato a tutti gli effetti il miglior pilota della storia del motociclismo. Questo sì, gli va dato atto effettivamente. E gli ha mandato i matti tutti gli avversari che fino adesso hanno avuto il coraggio di affrontarlo. Quindi è sicuramente un avversario estremamente problematico. Calcola comunque che per rimanere in Yamaha lui ha rinunciato a un'offerta milionarissima, molto molto importante da parte di Ducati, che è abbastanza in difficoltà per la posizione di questi mesi, queste settimane di Stoner, sta disperatamente cercando un pilota in grado di portare la Desmo 16 al livello in cui l'ha portata Stoner. Certo, a proposito, che cosa si dice negli ambienti? Tu conosci anche alcuni commentatori più vicini alle scuderie, alcuni direttori tecnici, ma cosa è successo a questo ragazzo? Lo ricordiamo, ha deciso di saltare unilateralmente, l'ha dichiarato lui alla squadra senza che la squadra potesse dirne niente, di saltare tre Gran Premi per motivi tra l'altro gravi, cioè quelli di salute. Ma guarda, il mistero Stoner è profondo, cioè il pilota si sa ha un carattere molto chiuso, è sempre stata una persona estremamente introversa, quindi ha sempre parlato poco, di fatto ha avuto dei problemi, manifestatosi in maniera evidente con questi problemi di stomaco che gli hanno impedito di fare bene il suo ruolo di pilota in questi mesi, sembra che abbia avuto a un certo punto una sorta di crollo e abbia detto guarda, è meglio che mi tenga fuori dal circuito per un po' per ritornare quello che ero. Qualcuno parla di esaurimento nervoso, qualcun altro parla cioè quando si parla di virus può essere tutto, certo. La squadra ufficialmente usa questo termine virus, le bocche sono molto cucite, qualcuno dice che non tornerà più, qualcun altro invece dice che si ripresenterà nel circuito al GP del Portogallo come lui aveva stabilito, piuttosto che al più tardi in Australia senza fare una trasferta in Europa. C'è abbastanza difficoltà a capire bene questa situazione. È chiaro. Senti, Indianapolis che cosa ci dice, che suggerimenti ci dà la pista su cui correranno domani i campioni? Ma guarda, è una pista che nota a tutti gli appassionati di motori, di fatto la MotoGP ci corre dall'anno scorso, aveva vinto Valentino Rossi. Quest'anno speriamo si faccia una bella gara, anche se comunque certo la condizione, l'assenza di Stoner secondo me si sente, non c'è più, non c'è quell'attesa così forte. Di fatto il principale avversario di Valentino attualmente rimane Lorenzo, speriamo che comunque questo permetta ai piloti che non sono stati al top in questi mesi, in queste settimane, di poter comunque dire la loro. Decisamente, in questo senso sì. Volevo fare anche un'altra riflessione, cercando di entrare con te, come abbiamo fatto altre volte, nella testa di un campione così complesso, intendo questo termine in quanto a ricchezza, come Valentino Rossi. Lui è sempre stato forte nel combattimento in pista, nel testa a testa, nel mettere pressione agli avversari, a tal punto che ha dichiarato: quando gli avversari sanno che ci sono dietro io, cascano, addirittura cascano anche quando sono davanti. Cosa succede adesso che a 50 punti Jorge Lorenzo non ha nulla da perdere a questo punto, perché vuole soltanto provarci sicuramente, o mettersi diciamo in bella luce, però la lotta è tutta fra di loro. Com'è possibile, ti chiedo, che fra di loro e il terzo, quarto e quinto, con l'assenza di Stoner, ci siano addirittura tanti secondi? Sicuramente lui è una persona molto lineare, vuole vincere anche questo campionato, ha 30 sì. anni, individua nell'aspetto anagrafico la sua unica debolezza, quindi secondo me non sta lì a preoccuparsi più di tanto, la cosa che lui piace sicuramente di più di tutti è vincere, poi se riesce a vincere anche divertendosi, battendo come è successo in qualche gara che hanno fatto un po' la storia del motociclismo i suoi avversari, sicuramente si diverte di più, però non credo che lui in questo momento sia a preoccuparsi più di tanto della posizione dei suoi avversari. Fino adesso ha mostrato che nel corpo a corpo lui vince sì, su tutto. Sì. Lorenzo, adesso che ha sistemato il suo aspetto contrattuale, che quindi è davanti un altro anno, è un contratto solo per un anno, non di più. Sì, per un anno. Ha detto che lui adesso punta a vincere delle gare. Ammesso che è difficilissimo, a meno che non succeda qualcosa di eclatante, che lui possa vincere il campionato e punta appunto a migliorarsi al massimo come campione per diventare un giorno quello che nel corpo a corpo batterà Valentino Rossi. Sì, sì, è chiara la sua strategia, è anche condivisibile a questo punto. Passiamo alla seconda parte della domanda, cioè com'è possibile che ci sia così tanta differenza con il terzo e quarto, sia a livello tecnico che umano? Ma ti chiedo. Ma conto che al terzo uno praticamente è andato via, in questo momento sta in ombra, certo. Che è Stoner, quindi tra lui e poi c'è Pedrosa, che comunque non è un personaggio da dimenticare, è un pilota, un ragazzo che in questi mesi ha avuto degli alti e bassi sia per motivi di salute che per altri motivi legati comunque al suo contratto con la Honda, è comunque un pilota che quando riesce a prendere le prime posizioni non le molla mai, non è proprio diciamo l'ultimo dei concorrenti. No, l'ultimo diciamo no, però è stata forse una promessa mancata. Sì, è 3-4 anni che alti e bassi, va detto. Anni che quello che deve vincere il mondiale con la Honda non l'ha vinto, certo, mai. Certo, non c'è mai riuscito. Gli altri hanno moto molto meno sviluppate, oppure difficoltà anche se hanno in moto, sono magari dei grandi piloti di grossa esperienza, ma comunque con delle aziende magari che non sono riuscite a portare avanti bene lo sviluppo tecnico dei loro prodotti come la Suzuki. Di fatto adesso ci sono poche marche in pista, sì, pochissime sì. moto, la penuria sulla griglia di partenza dei piloti è un problema serio. È chiaro. Abbiamo visto anche, per parlare un po' dell'Italia, le difficoltà che si hanno, sebbene come prima stagione con il buon Nicolò Canepa, che ci ha messo tanto entusiasmo, però arranca un po'. Secondo te lì sono più problemi tecnici o di preparazione? Ma lì non sai bene, lui guida una Ducati. Sulla Ducati di fatto si è trovato benissimo, splendidamente, da campione soltanto Stoner. Tutti gli altri piloti si sono trovati in difficoltà, a maggior ragione un giovane pilota che veniva dal campionato Superstock e che ha provato ad avere un approccio alla MotoGP abbastanza anomalo, cioè quello da tester. Lui aveva fatto l'anno scorso come tester della Bridgestone e quest'anno era stato in qualche maniera premiato andando su una moto difficile in una squadra satellite. Non dimenticare che da quest'anno l'approccio al moto mondiale per quelli che non hanno mai corso nella MotoGP è attraverso un team satellite, non attraverso un team ufficiale. È chiaro. Vedremo che cosa succederà domani durante il MotoGP, vi ricordo in ore serali, perché il fuso orario impone, credo, alle ore 20, vero, domani sera? Sono 6 ore di fuso orario. Perfetto, quindi occhio alle qualifiche, alle 19, esatto, erano alle 19.55 e quindi sarà alle 21 domani sera. Grazie Paola Barogno, caporedattore di Due Ruote, a prestissimo e buona serata. Grazie a te, a tutti. Rimaniamo in campo sportivo, ma passiamo dalle gare ai prodotti, sebbene i prodotti talvolta parlino molto più di sport che di strada, molto più di asfalto da pista che di asfalto da strada. Bisognerebbe guidarle solo in pista, effettivamente, queste auto, per sentirne davvero l'emozione vera. E vi sto parlando di un'esclusiva che Top Gear, ma questa volta nell'edizione italiana, è riuscita ad aggiudicarsi, quella di portare a casa una bella prova della SLS AMG, quella che farà la storia dopo la SLR. Si parla di un'auto davvero prestigiosa, forse uno dei tre coupé più prestigiosi, più sportivi della produzione mondiale attuale. Ne parliamo insieme al direttore di Top Gear Italia, Marcello Minerbi. Buonasera Marcello. Ciao Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, volevo con te, prima di parlare diffusamente e approfonditamente di questa prova, fare una specie di indice, perché noto piacevolmente, e lo noteranno tutti gli appassionati del tuo giornale, che come pochi altri, devo dire, si distinguono in questo panorama, si sta appesantendo il contenuto, quello buono, sempre di più. Questo è uno sforzo più inglese, più vostro, uno sforzo comune, come avviene? Ma direi che è uno sforzo congiunto, perché se l'Europa è mezza unita, perché non è ancora completamente, questo è un primo passo. No, scherzi a parte, noi ci diamo da fare parecchio e gli inglesi stanno notevolmente migliorando la qualità. Bene, perché si parla di Ferrari, si parla di Lamborghini, si parla di Aston Martin, di confronti in casa Ford, ma si parla di Mercedes AMG e non solo di questa di cui vi parlavo. Quattro ruote e dintorni. Dunque, dicevamo un SLS, questa è una sigla nuova ma diventerà assai nota agli appassionati delle supercar, e si tratta di un'auto, dice Top Gear di questo mese in edicola, costruita intorno alle famose ali da gabbiano. È stato proprio il tuo Marco Pascali, dico tuo perché con te fa il giornale, a provarla. Come è avvenuta questa prova, Marcello? Siamo stati contattati, e non credevamo ai nostri occhi, dalla Mercedes, o meglio alle nostre orecchie, per andare a guidare, unici giornalisti italiani, questa automobile su Alsacnering in pista. Abbiamo guidato un prototipo mascherato, ossia un'automobile definitiva mascherata per far credere che fosse un prototipo, che ha dato delle grandi soddisfazioni e delle scariche di adrenalina a Marco, che è un noto smanettone e che soprattutto in pista si diverte un sacco. Decisamente. Voi però non mettete solo le foto fatte a Marco durante la sua prova, ma mettete poi anche quella che sarà. Esatto. Tu dici che sarà un'auto definitiva così o ci saranno ancora dei cambiamenti? No. L'auto definitiva sarà così. Sarà così, quindi siamo assolutamente vicinissimi, proprio le cose che varieranno sono delle stupidaggini, tipo la forma della serratura che chiude la portiera una volta che era abbassata, quindi proprio una banalità, nemmeno la maniglia. E questa vettura è stata costruita sull'immagine, questo rendering è stato costruito sull'immagine del prototipo e sulla base di tutti gli elementi che abbiamo raccolto parlando con gli ingegneri della Mercedes, e parlando con i tecnici che hanno dello stile, che hanno generato la carrozzeria. Certo, non solo Mercedes, quindi, non solo SLS, ma anche AMG, il comparto sportivissimo di casa Mercedes, che riesce ad arrivare a quota 571 cavalli, 7500 giri, insomma ce n'è da vendere assolutamente. E tu dici tra l'altro in una nota: Ferrari e company dovranno temerla. Questa sì è un'auto che va a classificarsi proprio nelle sfere alte dell'automobilismo sportivo di oggi. Sì, e lo fa con il marchio Mercedes e non con un marchio AMG, sì, capisci? Sì. Cioè Mercedes contro Ferrari, Mercedes contro Aston Martin, Mercedes contro Maserati, hai capito? Quindi è proprio il ritorno di una rivalità che c'era negli anni 50 con la famosa SLR, che è tornata a vivere adesso in prima persona da parte della Mercedes. La Ferrari c'è sempre stata, le Maserati ci sono sempre state, la Mercedes si era allontanata, aveva affidato l'immagine di velocità, di prestazionale, di adrenalina e così via all'AMG. E adesso invece ci mette la faccia proprio. Tra l'altro nello stesso giornale verso la fine cito anche l'ultima invece delle SLR, che immagino sarà contesissima dagli appassionati e soprattutto dai collezionisti, che va a chiudere un'epoca importante per quanto riguarda questa bellissima sigla SLR, quasi a chiedere scusa agli italiani della Ferrari. Nella pagina successiva a questa super prova tu metti la Ferrari F458 Italia. Vorrei una tua riflessione su quest'auto che molti attendevano, se secondo te sarà all'altezza di queste attese, perché Ferrari non sbaglia mai. Guarda, Ferrari non sbaglia mai per tutta una serie di motivi che è molto facile elencare. Primo, come si dice oggi, il brand, il marchio. Quel cavallino lì ha un potere evocativo e un potere di convincimento che ben pochi altri marchi hanno. Va detto, va detto. Poi, indiscutibilmente, la qualità tecnica e di progettazione c'è, perché la Ferrari le automobili le sanno fare. Non è come una volta, che le Ferrari erano delle belle automobili ma con un sacco di difetti, pochissimo utilizzabili. Io in passato ne ho avuta una e quindi posso parlare, certo, a ragion veduta. Adesso sono veramente degli oggetti di grande qualità tecnologica e con delle raffinatezze che una volta non avevano. C'è un personaggio che sta avendo grandissimo successo nei paesi anglosassoni, qualcheduno lo conosce anche qui, ma non come là. Si chiama Stig, quattro lettere che stanno a indicare un signore vestito di bianco e non ha una divisa qualsiasi, è una tuta da pilota, casco bianco e tanto di lente riflettente che ne garantisce l'anonimato. Intanto ti chiedo la domanda che si fanno tutti: chi è questo Stig, visto che gli fate provare le auto più belle, più veloci, tutti i confronti che fa li vince, e poi perché sta ottenendo così successo secondo te fra gli anglosassoni e perché è così diffuso, anche se le due cose immagino siano legate, nel vostro giornale? Allora, io credo che molti ascoltatori siano come me, siano stati, ma lo siano ancora, degli accaniti lettori dei fumetti, delle avventure di personaggi mitici, dal Uomo Ragno ai mitici del West, o che so io. Stig, che tutti si domandano chi sia, beh, il primo a domandarselo chi sia sono io non lo so. Lo sanno solamente quelli della BBC, che usano questo personaggio, che è senz'altro un pilota, che è sicuramente un pilota di primissima qualità, e lo usano molto abilmente, non facendolo mai vedere, circondandogli questo alone di mistero. Chi sarà? Alcuni dicono che uno fosse Damon Hill e altri grandi nomi dell'automobilismo inglese di questo periodo. Lo usano come personaggio, ci credono e la gente si affeziona a questo fantasma, sì. Un fantasma bianco. Qualcuno dice che sia una rotazione di grandi piloti. C'era stata una gag in televisione in cui, togliendosi il casco, sotto abbiamo trovato Schumacher, no? In Inghilterra. Sì, sì, sì. Ed è questa una delle cose che i nostri lettori troveranno sul prossimo numero, perché questa è un'altra grandissima sorpresa del numero che stiamo facendo e che uscirà prossimamente. Certo, ma andiamo avanti, Marcello. Io vedo poi a pagina 46 tre gioielli con tantissimi cavalli, tre Veyron 3 che sfrecciano sulla loro autostrada privata. Tu dici, in effetti in Arabia ci avevate già portato, avevate fatto già qualche provocazione, sì, di questo genere. Sì, sì, sì, queste automobili erano già state provate in Arabia, il servizio era già stato fatto tempo fa, noi l'abbiamo riproposto perché abbiamo voluto in questo numero fare un po' un numero speciale che raccogliesse il meglio di quanto pubblicato da Turchia negli ultimi tempi. Bene, queste tre vetture che appartengono tutte a un emiro sono state messe a disposizione di Top Gear, che ha delle maniglie straordinarie ad Abu Dhabi in Arabia, per fare questo test e per fare questo servizio straordinario. Atterrando un pochino più sulla terra, mi viene da citare un confronto interessante che puoi raccontare ai nostri ascoltatori, tutto in casa Ford, la GT, che è una sigla davvero sottovalutata da molti, auto che al semaforo può passare, non dico inosservata, quello no, ma guardando la Ford qualcuno può fare una smorfia per poi invece pentirsene, e invece la Focus RS, molto più umana, terrena se vogliamo, ma mica tanto. Guarda, io credo che la Ford su certi prodotti sia assolutamente di altissimo livello, come lo è stata la GT a suo tempo e come è anche questa GT. Beh, anche la RS è un'automobile con delle prestazioni straordinarie e con una cavalleria, passami il termine, incredibile per essere una trazione anteriore. Sono 305 cavalli su un'automobile che tira, come si dice, sulle ruote davanti. Fino a un po' di anni fa questo plafond era ritenuto irraggiungibile, è una specie di anticamera del suicidio. Decisamente, è chiaro. Senti Marcello, che cosa ne pensi invece di Mazda? Una marca interessante, una marca che gioca molto sulla precisione, una delle prime a dare la garanzia a 5 anni, ti ricordi qualche anno fa, ora tira fuori questa Furay. Vorrei anche non dimenticare il cabrio più venduto nel mondo, il MX-5, così amato come piccola roadster. Come la vedi questo brand? La X-5 amata e odiata da un sacco di acquirenti, odiata da molti costruttori, che hanno cercato sempre di silurarli e non ci sono mai riusciti. Quindi sotto questo aspetto è un fenomeno. Alla Mazda hanno un centro stile molto libero, molto creativo, e vengono lasciati i disegnatori in assoluta e totale libertà per creare delle vetture che poi, ma molto molto più avanti, verranno utilizzate, se non in toto, in parte sulla produzione, hai capito? Certo, voi addirittura fate una provocazione, dite quest'auto deve viaggiare, mi riferisco alla Furay, tra l'altro bellissima esteticamente, addirittura deve gareggiare alle Mans, chiaro, questo poi si vedrà perché l'avete tra l'altro provata in un aeroporto abbandonato. C'è spazio per citare un'ulteriore prova, che è quella della California, che dal titolo a Californication. Voi dite la preoccupazione che a Maranello avessero alterato il concetto di sportività nella nuova creatura in qualcosa di meno forte, non ci ha fatto dormire la notte, ma tranquilli, è tutto a posto. L'avete provata quindi? Sì, sai, questa è un'altra grande automobile. Un'altra grande automobile che va a competere in modo totale, in modo palese, con le Mercedes, le SLK. Il pubblico è quello lì. Certo. Certo, e non dici poco, perché è un mercato veramente, veramente importante. È un mercato ampio, mercato che ha delle grosse fette negli Stati Uniti, un'importanza notevole, sono automobili estremamente utilizzabili e guidabili, e la California lo è, non è un mostro, capisci, che tu non puoi usare mattino, certo, la sera, casa ufficio, ufficio casa, e quindi è un'auto, secondo me, prima di tutto innovativa per la Ferrari. E poi è estremamente importante anche per il nostro Made in Italy. Grazie, perché ci fai sempre sognare, Marcello Minerbi, il direttore di Top Gear Italia. Grazie di cuore, a prestissimo Marcello. Grazie a voi e saluti a tutti, grazie. Grazie a Marcello Minerbi. Adesso ci occupiamo di un'azienda di farmaceutica. Voi direte, ma che cosa c'entra un'azienda di farmaceutica in quattro ruote dintorni? C'entra perché hanno una flotta aziendale importante e hanno promesso, e così sentiamo tutte le aziende che per esempio con l'operazione 10x10 di quattro ruote si impegnano a ridurre le emissioni nocive, ha promesso che la sua flotta aziendale inquinerà meno. Lo chiediamo meglio al suo fleet manager, colui che si occupa proprio della mobilità, figura tra l'altro per scritta dalla legge, non sempre rispettata dalle aziende, Martino Carrieri. Buonasera Carrieri. Buonasera. Buonasera e benvenuto. Diamo intanto due definizioni di AstraZeneca. Abbiamo detto agenzia, società di farmaceutica. A quanto ammonta la vostra flotta aziendale e come è composta? Allora, nostra flotta aziendale è di circa 700 autovetture, abbiamo 1000 dipendenti in Italia, siamo un'azienda leader a livello mondiale per aree terapeutiche e gastrointestinali, abbiamo le nostre belle macchine. Tra poco parleremo di una soluzione particolare, si chiama Clear Solution, che è un servizio di General Electric Capital, una divisione della General Electric che si è specializzata nel noleggio a lungo termine, che promette di farvi risparmiare non solo carburante, ma soprattutto di emettere meno nocive emissioni nell'aria. Quattro ruote e dintorni. AstraZeneca dunque ha promesso di ridurre le emissioni nocive nell'aria. Ci racconta Martino Carrieri come lo farà esattamente? Allora, coinvolgendo le persone. La nostra idea è sempre stata quella di cercare di fare in modo che le persone capiscano il problema, ci agevolino e ci aiutino nella gestione. E quindi cosa abbiamo fatto? Non abbiamo fatto altro che coinvolgere le persone attraverso una praticamente una carbon tax che noi addebiteremo al driver, all'utilizzatore, chi utilizza l'auto aziendale, sì. Che se superato un certo limite di emissione. Abbiamo stabilito quest'anno il limite di emissione è 160 grammi al chilometro e ogni grammo che eccede, la vettura che verrà ordinata da parte del driver e che eccede i 160 grammi, ci sarà un addebito per ogni grammo di emissione. Ah, ecco, quindi basandosi su quelle che sono i dati forniti dal costruttore di emissioni che si calcolano in grammi di CO2 emessa ogni chilometro percorso. Questo perché voi lasciate la libertà comunque al vostro collaboratore, al vostro dipendente di scegliere un'auto che preferisce, sapendo però che c'è una tassa da pagare nel caso si ecceda questo 160 grammi. Esatto. Sì. Diciamo che questo ha dato continuità a quella che è la nostra car policy. La nostra car policy appunto è quella di dare la possibilità di scegliere le macchine che uno piace, che più serve a lui, ecco, più esigenze sue personali, ecco. E invece Clear Solution che cos'è? Clear Solution è lo strumento che ci ha permesso di trovare la maniera di calcolare questo costo di emissione, cioè quanto costa ogni grammo di emissione all'azienda. Sì. Per valorizzare attraverso Clear Solution, grazie a G-Capital, abbiamo valorizzato quanto costa all'azienda AstraZeneca un grammo di emissioni in più in termini di chiaramente carburante, la percorrenza eccetera, attraverso una formula che abbiamo creato insieme e abbiamo valorizzato questo dato, valorizzato e l'abbiamo applicato alla nostra car policy. Allora Martino Carrieri, tutto questo ha già avuto inizio o quando inizierà nella vostra azienda? Ha già avuto inizio dal primo di giugno, è stato modificato la nostra car policy e siamo già partiti col primo che tra l'altro ci ha dato dei risultati molto confortanti. Allora direi che a fine anno noi ci risentiamo, credo possa essere utile anche per gli ascoltatori per capire quanti dipendenti hanno fatto una scelta più ecologica e quanti invece più economica, va bene? Certo, perfetto. Grazie a Martino Carrieri di AstraZeneca, a presto e complimenti per l'iniziativa. Grazie a lei, salve. Grazie. Buona serata. Rimaniamo naturalmente in campo quattro ruote, ma adesso ci spostiamo ancora una volta di tema sul mercato. Mercato che ad agosto sembra, da indiscrezioni, che non sia andato così male rispetto ad agosto dell'anno scorso. Lo chiediamo però al nostro esperto, analista del Sole 24 Ore, il professor Malagodi. Caro professore, buonasera e bentornato. Grazie Roberto, ben ritrovato e spero che lei e tutti gli ascoltatori abbiate passato un ottimo Ferragosto senza troppo pensare a ciò che si prepara nell'autunno. Intanto l'agosto per quanto riguarda l'automobile, essendo invece il settembre abbastanza problematico per una serie di ragioni, non tanto soltanto legate al mercato automobilistico, l'agosto è andato bene o comunque sta andando bene perché teniamo conto che avremo la chiusura del mese esattamente il lunedì 31, tra due giorni, e quindi quel giorno tutti gli stati maggiori delle case riprenderanno servizio, vedranno quali sono i numeri sui quali sta procedendo agosto e potranno apportare i dovuti correttivi per il recupero delle quote, perché a quel momento l'ultimo giorno conterà parecchio anche su un agosto che come numeri normalmente fa circa la metà delle immatricolazioni di un mese normale, quindi è un mese dal punto di vista dei volumi non rilevante, interessante perché di passaggio tra la chiusura del primo periodo dell'anno che arriva fino a luglio e l'inizio della fase conclusiva nella quale tutte le case si scateneranno con campagne promozionali o d'altro, e quindi è interessante capire se agosto trasmette al settembre che sta per iniziare dei segnali di ottimismo come sta avvenendo in questo caso. E prepariamo già i consigli per fine anno per chi non ci tiene a quel, sarà 10 probabilmente sulla targa, il 2010, ma chi vuole avere comunque 09 sulla targa, è vero che l'auto poi sarà omologata un anno prima ufficialmente, ma a fine anno si fanno grandi affari perché molto spesso da novembre a fine dicembre i concessionari devono raggiungere i cosiddetti obiettivi di vendita, capaci quindi di vendere con grandissimi vantaggi per chi acquista. È chiaro, chi cambia l'auto ogni 6 mesi, ogni anno, invece può pesare avere lo 09 ancora sulla targa. Professore, riusciamo a parlare di marchi per questa estate? Beh, parliamo innanzitutto di numeri di un agosto che, essendo l'anno scorso stato chiuso a poco meno di 78.000, quest'anno si annuncia con un volume, io dico almeno di 85.000, c'è chi parla di qualche possibilità maggiore, ma ripeto, tutto si gioca il giorno 31, il prossimo lunedì. Le quote... Fiat sta andando come è andata sino ad ora, con un buon terzo dell'immatricolato in mano a Lancia, perché ha un buon passo Lancia, Alfa così così, e Fiat come marca un 26%. Teniamo conto che questo 26% è singolare, perché noi lamentiamo, diciamo, che in Italia non si comprano a sufficienza macchine italiane, il che non è relativamente vero, perché sì, il 26% della sola marca Fiat è un primato a livello europeo di un singolo brand per un particolare paese, visto che in Francia... Come dire, neanche Renault in Francia fa la stessa cosa? Beh no, Renault in Francia fa un 22%, è vero che con l'appoggio di Citroën e di PSA e di Peugeot nel gruppo PSA il volume delle quote delle marche francesi raggiunge il 52-53%, però la sola marca Renault fa il 22%, come Volkswagen, come singola marca... In Germania fa un 20%, è vero che Volkswagen con Audi, Skoda e Seat fa il 33%, ed è altrettanto vero che in Germania poi ci sono le immatricolazioni Ford e Opel che sono tedesche, quindi la quota delle macchine tedesche comprate dai tedeschi è maggiore, però per la singola marca Fiat ha un primato in Europa come marca, addirittura in Gran Bretagna la prima marca è Ford con il 17%, quindi è un dato interessante. Interessante, forse nessuna ha una Panda, una Punto e una 500, tre modelli veramente importanti che sono, se non sbaglio, fra i primi 4 o massimo 5 veicoli più venduti in Italia. Sempre prima immagino la Panda o la Punto, a seguito una delle due, si era forse inserita una Opel, mi aiuti lei, come terza auto più venduta a luglio? No, è stata la Ford Fiesta. La Fiesta. Tiene molto bene i suoi volumi in Italia e appoggia il mercato di Ford anche in agosto verso un robusto 10%, tenendo conto che Ford è in arretrato di consegne di CA che cominceranno da settembre ad arrivare in numero copioso alla rete. Quindi Ford va bene, come stanno andando bene altre marche, Peugeot, la stessa Citroën, come il gruppo Volkswagen. Renault come marca non va bene, ma come gruppo va bene perché ha l'appoggio di Dacia che vende con i volumi che vediamo crescenti. Quindi è un mercato che si muove in questa direzione. Certamente la domanda è sempre più squilibrata anche in agosto su GPL e metano e verso auto di cilindrate e dimensioni contenute, a detrimento progressivo del diesel e delle fasce medio-alte del mercato. Questa è la regola degli incentivi, non solo all'automazione, ma degli incentivi per l'acquisto delle macchine a basso impatto ambientale che stanno pilotando il mercato. È per forza, ne è diretta conseguenza ed è anche diffuso questo fenomeno a macchia di leopardo, è chiaro. Professore, ci sentiamo, se lei è d'accordo, fra 7 giorni esatti con i dati definitivi in mano, perché ci sarà da discutere anche sull'autunno in arrivo. Quindi la invito fin da ora nella trasmissione fra 7 giorni, cercheremo di capire come si svilupperà il mercato in questo fine anno. Grazie di cuore. A presto. A presto. Adesso noi passiamo all'ultimo argomento della puntata di oggi, un argomento altrettanto importante perché si tratta delle nuove sanzioni appesantite ai noi da una parte, per fortuna, viste le continue sfide dei giovani, purtroppo senza testa, nel senso di cervello, sulle strade, per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza. Il cosiddetto pacchetto sicurezza è stato approvato, dall'8 agosto, se non sbaglio, è in vigore. Ne parliamo con l'avvocato Erika Lievore di Milano. Buonasera, avvocato. Buonasera a lei, ascoltatori. Tutti sdraiati sulle spiagge e sulle cime delle montagne, ne abbiamo sentito parlare durante questa estate. Che cosa è successo esattamente al codice della strada? È successo che il codice della strada è stato modificato dalla legge 94 del 2009, il cosiddetto pacchetto sicurezza, che è entrato in vigore proprio l'8 agosto 2009. Questo pacchetto sicurezza, tra le altre cose, ha previsto ulteriori inasprimenti per chi guida sotto l'effetto di alcol. Ecco, quali sono dunque le nuove sanzioni? Mi raccomando, si tratta di guida in stato di ebbrezza, quindi un fenomeno pericolosissimo. Sentite le sanzioni, che sono anche deterrente per evitare, se la sicurezza non dovesse bastare, certi stupidi comportamenti alla guida. Allora, per chi guida con un tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro è prevista un'ammenda che va da 500 a 2000 euro, nonché la sospensione della patente da 3 a 6 mesi e la decurtazione di 10 punti della patente. Questo per chi guida con un tasso da 0,5 a 0,8, quindi la sospensione aumenta da 3 a 6 mesi, da 500 euro a 2000 euro la sanzione, decurtazione 10 punti. Poi c'è un altro gradino da 0,8 a 1,5, ricordiamo, evidentemente il limite è 0,5 grammi su litro. Esatto, in questo caso l'ammenda va da 800 a 3200 euro, la sospensione della patente passa da 6 mesi a un anno e la decurtazione rimane sempre di 10 punti della patente. Veloci sul terzo settore, quando il tasso è superiore a 1,5 grammi su litro. In questo caso l'ammenda va da 1.500 a 6.000 euro, l'arresto da 3 mesi a un anno, la sospensione della patente da 1 a 2 anni, la decurtazione di 10 punti della patente, nonché la confisca del veicolo, a meno che il veicolo stesso appartenga a una persona che è estranea a questo reato e nel qual caso non sia presente, ad esempio quando il proprietario non è un passeggero del veicolo stesso. Qualora invece il proprietario non è alla guida del veicolo ma è comunque a bordo dell'auto, questa verrà confiscata in ogni caso e la durata della sospensione della patente per il guidatore viene raddoppiata, quindi da 2 a 4 anni. Mamma mia, sanzioni pesantissime. Dunque, se non siamo in grado di guidare, è inutile far guidare l'amico meno sbronzo di noi ma altrettanto fuori dai limiti, perché c'è la confisca della nostra auto, comportamento doppiamente pericoloso. C'è una leggenda, quella che ci si può rifiutare all'accertamento dell'etilometro, è vero? No, non è così, infatti nei confronti di chi si rifiuta di sottoporsi a questi accertamenti verranno applicate le stesse sanzioni previste per chi viene trovato alla guida con uno stato di ebbrezza ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, quindi diciamo il massimo delle sanzioni possibili. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti comporterà inoltre anche il sequestro preventivo del veicolo, a meno che appunto non appartenga a una persona estranea al reato che non è presente. Tra l'altro, quando tutto questo viene confermato dalla polizia, in caso di incidente tutto questo raddoppia, ci sono sanzioni ancora più gravi, come dire, grave se guidi ebbro, ma è ancora più grave se la tua ebbrezza ovviamente ha provocato un incidente. Chiudiamo velocemente: qualora una persona guidi sotto effetto di alcol di notte o di giorno, cambia qualcosa? Allora, chi guida con un tasso alcolemico superiore allo 0,5 grammo per litro dopo le 22 e prima delle ore 7 del mattino si vedrà applicare le sanzioni che abbiamo prima citato, aumentate da un terzo fino alla metà. E peraltro una quota di questa sanzione andrà ad alimentare il fondo contro l'incidentalità notturna che è stato appunto fondato grazie a questo pacchetto. Idea buona che io estenderei a tutte le sanzioni, perché il fondo ne ha bisogno. Grazie avvocato Lievore di Milano, a presto e buona serata. Grazie, buonasera a lei, ascoltatori. Con la sua voce termina anche la nostra trasmissione, che però torna puntuale sabato prossimo dalle 21 alle 22, un'ora piena di motori. Radio24.it e 4ruote@radio24.it. Giacomo Spunta in regia. Ciao Giacomo, grazie per avermi seguito tutta la sera. Un grazie a voi da Roberto Rasia. Buona guida soprattutto per domani.